Cielo, c'è qualcuno che non sa più che ore sono. C'è chi dice qua, c'è chi dice là. Io non mi muovo. C'è chi dice là, c'è chi dice qua. Io non ci sono. Tanta gente convinta che ci sia nell'aldilà qualche cosa chissà. Quanta gente comunque ci sarà che si accontenterà. C'è qualcuno che non sa cos'è un uomo. C'è qualcuno che non ha rispetto per nessuno. C'è chi dice no, c'è chi dice no. Io non ci sono. C'è chi dice no, c'è chi dice no. Io non mi muovo. Tanta gente convinta che ci sia nell'aldilà qualche cosa chissà. Quanta gente comunque ci sarà che si accontenterà.